Allora, siamo di fronte a un periodo in cui si stanno rilanciando fortemente le privatizzazioni di tutti i servizi pubblici locali, compreso il servizio idrico. Lo stiamo denunciando da tempo, da mesi, perché già nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si intravedeva appunto questo processo, questo fenomeno. Ovvero il cosiddetto PNRR prevede alla linea di finanziamento sulla tutela del territorio e della risorsa idrica appunto, un rilancio dei processi di privatizzazione attraverso sostanzialmente l'estensione in maggior modo verso il sud Italia del territorio di competenza di gestione da parte delle grandi aziende multiservizi del centro-nord che sono quotate in borsa, sono società misto pubblico-private, prettamente con una vocazione privatistica che puntano alla massimizzazione del profitto, soprattutto attraverso una gestione finanziaria. Ecco, di fatto si prevede che queste possano, essendo definite come soggetti industriali, che quindi dovranno rilevare quelle arretrate, come viene scritto letteralmente, forme di gestione e aziende che gestiscono nel meridione, ma non solo perché sono presenti anche territori nel centro e nel nord in cui queste aziende potranno espandersi ulteriormente, pensiamo al Piemonte, ma non solo, anche al Lazio o alle Marche, ad esempio. Ecco, quindi c'è una sorta di ricatto che viene costruito per cui l'erogazione dei fondi, appunto, destinati a questa linea di missione sulla tutela del territorio e della risorsa idrica, sono subordinati all'affidamento a questi soggetti, appunto, definiti come industriali e quindi in quanto tali efficienti. Un approccio che non possiamo che definire ideologico, di natura prettamente liberista, che vede appunto nel mercato la forma più efficiente e la consegna e l'affidamento ai privati la modalità migliore di erogazione di servizi pubblici essenziali. Ora, il PNRR, come sappiamo, contiene una serie di condizionalità, in parte imposte, ma in parte anche condivise dallo Stato italiano e quindi anche dall'attuale governo. Tra queste condizionalità c'è la riforma della concorrenza, per cui a novembre, inizio novembre, il 4, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge delega. E che è molto preoccupante perché anche qui lo si dice esplicitamente nelle finalità di tutto il provvedimento, è volto appunto all'apertura del mercato, alla deregolamentazione e all'eliminazione dei limiti per cui il mercato può accedere a una serie di settori, compresi i servizi pubblici. In particolare l'articolo 6 è diciamo, impregnato di un'ideologia neoliberista che guarda al mercato come la strada prioritaria per la gestione dei servizi pubblici, tutti compresi, e quindi anche l'acqua, perché si dice sostanzialmente che quegli enti locali che vorranno e sceglieranno nel futuro, ma anche vogliano confermare le attuali gestioni pubbliche o anche sotto forma di società per azione, però a totale capitale pubblico, quindi quella forma un po' ibrida, ma che di fatto ancora relega fuori i privati, beh, dovranno giustificare il mancato ricorso al mercato attraverso una relazione dettagliata che dovrà passare sotto il vaglio dell'antitrust. E produrre una serie di documenti sul fatto, sulla dimostrazione che la gestione pubblica è più efficiente, più economica e più vantaggiosa per l'ente locale. D'altra parte, invece, le gestioni private dovranno produrre sostanzialmente poco o nulla rispetto appunto alla giustificazione di questa scelta, quindi l'affidamento al mercato. Solo fare una relazione sugli investimenti realizzati e poco più. Ecco, quindi una disparità di trattamento evidente, esplicita, che di fatto punta a rilanciare la privatizzazione, perché lascia come possibilità più semplice da poter attuare appunto quella della gestione privatistica. Altro, diciamo, elemento che guarda sempre a una appunto privatizzazione ed è che è in continuità con appunto la riforma della governance prevista nel PNRR è lo stimolo e l'incentivo ai processi di aggregazione, che quindi vanno proprio a aiutare e sostenere quelle grandi aziende, ad esempio le multiservizi come Acea, Iren, A2A, quotate in borsa e che quindi potranno essere sostenute nelle operazioni di fusione e incorporazione di altri soggetti, di altri gestori, magari in territori contigui. E tutto questo potremmo dire alla faccia della concorrenza, cioè in aperta contraddizione con questo, perché anzi limita fortemente la concorrenza. Tra l'altro va sempre ricordato che per il servizio idrico non esiste concorrenza, nel senso che si tratta di un monopolio naturale. Al limite è una concorrenza per il mercato perché un minimo di competizione si svolge solo nel momento della presentazione, dell'offerta al bando di gara. E quindi ecco, qui c'è una mistificazione di fatto, della realtà, e viene confermata appunto un approccio prettamente ideologico. Ecco, una delle conseguenze e degli effetti più preoccupanti, laddove appunto si è approvato così com'è questo provvedimento, in particolare l'articolo 6, è il fatto che appunto si delega il governo a scrivere un testo unico sui servizi pubblici locali, quindi con indicazioni e paletti molto stringenti, tutti volti appunto a quel processo di privatizzazione. E che avrà appunto una conseguenza sugli enti locali che saranno di fatto spogliati delle loro funzioni fondamentali di garanzia dei servizi e quindi dei diritti ad essi collegati. E quindi questo è un processo che ovviamente sappiamo che va avanti da anni attraverso anche i tagli che sono stati fatti, no, per le politiche di austerità rispetto agli stanziamenti erogati dallo Stato nei confronti degli enti locali. E però appunto è un ulteriore tassello di questo mosaico che porta di fatto a destrutturare quella che è la democrazia di prossimità, che poi è quella che ha in mano sostanzialmente ancora ad oggi gran parte della gestione dei beni comuni e dei servizi pubblici. E quindi ecco, è un provvedimento che va contrastato con forza. Viene da un governo alla cui presidenza c'è Mario Draghi, che non ha mai dissimulato la volontà di rilanciare le privatizzazioni. Tutto, diciamo, tutta la sua carriera è costellata da conferme in questo senso. Pensiamo solo al fatto che, come direttore generale del Ministero del Tesoro, è stato indicato e delegato a partecipare a quel famigerato incontro con i finanzieri europei che si svolse sul Panfilo messo a disposizione dalla regina Elisabetta, Britannia, nel 93, se non erro, in cui sostanzialmente si aprì, diede il via a quella grande stagione di privatizzazioni delle grandi aziende statali, Elen, Enel, Eni, Liri, eccetera. E poi, in qualità di governatore della Banca d'Italia, nel 2011, insieme all'allora presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, scrissero una lettera, firmarono una lettera per l'allora presidente del Consiglio Berlusconi, in cui si indicavano una serie di riforme, tra cui il rilancio di privatizzazioni su larga scala, in particolare per la fornitura di servizi pubblici locali. Ora, questa lettera viene inviata al governo italiano il 5 agosto 2011, quindi a distanza di meno di 2 mesi dallo svolgimento dei referendum che avevano sancito il fatto che la maggioranza assoluta del popolo italiano non volesse le privatizzazioni, anzi indicasse come strada, come obiettivo, quella di una gestione pubblica e partecipativa dell'acqua, ma anche del resto dei servizi pubblici. Ecco, questo dimostra un po' la scarsa sensibilità democratica, per usare un eufemismo, dell'attuale presidente del Consiglio, che oggi, in qualità di premier con pieni poteri, di fatto rilancia questo progetto di privatizzazione su larga scala attraverso il disegno di legge concorrenza. Come Movimento per l'Acqua ci siamo subito attivati, sia nei confronti del PNRR, criticando appunto la logica, soprattutto per quanto riguarda il tema della tutela della risorsa idrica, della sua gestione. Abbiamo organizzato, diciamo, una carovana che ha previsto una serie di iniziative tra i mesi di settembre-ottobre e che poi è arrivata a concludersi con una manifestazione nazionale a Napoli il 20 di novembre, quindi in cui però poi il focus è diventato appunto il combinato disposto del PNRR e del DDL concorrenza, perché eravamo in un momento in cui purtroppo il Consiglio dei Ministri già aveva approvato questo disegno di legge. E quindi una manifestazione molto partecipata, un buon successo anche di visibilità, ma ovviamente la lotta non può fermarsi e anzi lo rilanciamo. Rilanciamo la battaglia, la vertenza su questo provvedimento a partire da una riunione allargata a tutti i soggetti sensibili a questi temi, quelli che hanno partecipato alla campagna referendaria, che si sono schierati a difesa dei servizi pubblici per la loro ripubblicizzazione in tutti questi anni, che hanno aperto una riflessione sulla gestione dei beni comuni, una riunione ovviamente online che si terrà il 18 di febbraio, proprio per condividere una strategia, iniziative ed azioni da mettere in campo nelle prossime settimane per contrastare l'approvazione di questo provvedimento che è in discussione al Senato. Ecco, una serie di iniziative sono già state intraprese, è stata lanciata una petizione online che in poche ore ha raccolto già migliaia di firme, è stato lanciato un appello per adesioni di realtà e organizzazioni. È stata lanciata una campagna di approvazione di ordini del giorno a livello comunale, che si sta espandendo. È notizia appunto di pochi giorni che il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato all'unanimità questo ordine del giorno che richiede lo stralcio dell'articolo 6 dal disegno di legge sulla concorrenza. Numerosi enti locali lo stanno facendo, sono in programma ed è calendarizzato, per esempio, anche nelle prossime settimane, anche presso il comune di Roma. Insomma, è uno strumento che ovviamente di cui conosciamo i limiti formali, però che serve per approfondire la discussione, anche per rompere questo muro di omertà e di censura che c'è su questo tema. Cioè, le privatizzazioni sono ben volute trasversalmente in tutto, diciamo, l'arco politico parlamentare. E quindi diciamo è meglio non parlarle. Per cui uno degli obiettivi che un po' ci siamo dati è quello appunto di far invece emergere questo tema che è ovviamente fondamentale all'interno del dibattito pubblico, un dibattito che deve essere onesto e quindi far comprendere quali siano i rischi reali dei contenuti e del merito di questo provvedimento. E poi ovviamente nelle prossime settimane c'è anche il forum della convergenza dei movimenti sociali che si svolgerà tra il 25 e il 27 a Roma, presso Scoop. Sarà un altro momento di discussione e confronto anche sul tema dei beni comuni, dei servizi pubblici, del contrasto alle privatizzazioni. E poi una serie di mobilitazioni a partire da quella convocata a fine marzo a Firenze dalla GKN che ovviamente vedrà partecipe anche il Movimento per l'Acqua, portando come contributo appunto questo tema. Insomma, una mobilitazione che deve crescere, un dibattito che si deve allargare, perché appunto questo provvedimento non deve passare assolutamente.